allo showdown, cioè il momento decisivo. Stanno per arrivare questi decreti alla Commissione Unificata, bisogna fare una cosa fatta molto bene, perché il federalismo fiscale può essere un'arma potente. Perché? Perché noi sappiamo tutti che il debito pubblico in Italia è esploso con la nascita delle regioni, e questo avveniva perché le regioni erano e sono dei centri di spesa irresponsabili, cioè spendono ma poi vanno dallo Stato a farsi ad equilibrare i conti quando sbagliano. Col federalismo fiscale questo non sarà più possibile, quindi è l'unico strumento per rimettere sotto controllo la spesa pubblica decentrata, in particolare la sanità e altre voci di spesa. Quindi è un potente strumento per fare in modo non di ridurre i servizi ai cittadini, ma per farli meglio senza avere costi che sbandano da una parte all'altra. Pensi che anche noi, diciamo, nel nostro piccolo abbiamo fatto una verifica delle spese dei municipi romani, cioè dei 19 municipi romani, e abbiamo visto che anche sulle cose elementari come le mense scolastiche e altre cose ci sono squilibri del 30-40%, com'è possibile che un pezzo di carne all'esquilino costi tot e all'ostiense costi una cosa diversa? Quindi da questo punto di vista bisogna mettere in trasparenza i conti e rendere totalmente responsabili le amministrazioni pubbliche locali. E con Tremonti, secondo lei, ce la si fa? Sì, insomma, ci si intende o no alla fine? Ma Tremonti, diciamo che non ha altra strada, perché se Tremonti e questa amministrazione non riesce a risparmiare su questo versante, non riesce a mettere in chiarezza su questa storia, non riuscirà mai a tagliare le tasse e non riuscirà mai a fare quest'alto livello di riforme sono necessarie al paese. Quindi io mi fido di lui, sia perché lo conosco e lo stimo, ma anche perché è veramente una scelta obbligata. Allora...